milioni di euro ce le avete in tasca per comprarvi l'attaccante più forte al mondo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, qui è un massacro. È rimasto lì a godere fino a quando non ha ficcato il pallone nella porta sguardita, quasi una cosa sessualmente vietata ai minori. Tutti convocati di Carlo Genta. Venerdì a tutti, ciao. 800 24 00 24, siamo qui in diretta, anche se voi magari siete in vacanza sotto un cielo infernale da tempesta perfetta, di questo che parleremo oggi, non delle vostre vacanze, o magari anche sì, se ne avete voglia, non del cielo plumbeo di questi giorni, con Franco Biantanini, autore di questo programma, e Roberto Scaltriti in regia. Parleremo di noia. La lezione di tedesco è il titolo della Gazzetta, la riforma tedesca, così apre i servizi sportivi il Corriere della Sera. Scuola Germania, questo è Repubblica, ma quanto sono belli, bravi, ricchi e virtuosi questi tedeschi. Le pagine dei giornali, vi confesso, a proposito di noia, sono in questi giorni divertenti come due ore di matematica al liceo alle 8 del mattino. La verità è che ci stanno portando a scuola, che sono ricchi, hanno gli stadi pieni, hanno anche molti soldi da spendere, come nel caso del Bayern di Monaco. Poi, se possiamo anche timidamente far notare che il Bayern ha perso le ultime due finali, l'ultima delle quali con il Chelsea di Matteo, che oggi, insomma, credo si faccia dei giri al mercato di Londra ogni mattina. Il Borussia Dortmund al 90° della gara di ritorno era fuori con il Malaga, l'unica squadra che ha gli sceicchi che non pagano. La verità è che Bayern, Monaco e Borussia giocano un gran calcio e sono fisicamente mostruose. Si sono abbattute sulle due spagnole come una tempesta perfetta. Parte il travessone, Lewandowski, rete, Lewandowski, e il Borussia in vantaggio. Dante che fa da torre, Müller, Thomas Müller. Poi il Bolo Reus, Lewandowski, rete, Lewandowski. Müller dentro, e arriva poi la deviazione di Mario Gomez per il gol del 2-0. Lewandowski in rete, Lewandowski, hat-trick, impazzisce lo stadio. Robben per il 3-0. Di corsa parte Lewandowski in rete, Lewandowski, 4-1. Müller ancora lui! Questa è la spremuta di sangue spagnolo e di gol che cui abbiamo assistito in settimana. Comunque Germania 8, Spagna 1, onestamente non sta né in cielo né in terra, va bene tutto, pure le strane congiunzioni astrali del calcio che ci spingono verso questa finale tutta tedesca che sembra ormai scritta, che ci toglie perfino la voglia di vedere, di andare al cinema la sera delle partite di ritorno. Poi si giocherà a Londra e anche questa è una piccola rivincita per i tedeschi, se vogliamo parlare di politica, economia, storia, eccetera, dato che in questi giorni sembra di essere a scuola. Ma a me preme notare come Bayern e Borussia siano due squadre fisicamente mostruose. Per questo ho chiamato un nostro e vostro amico di vecchia data come Vincenzo Pincolini, che a proposito di squadre mostruose era preparatore atletico di un Milan che sembrava un po' il Bayern di Monaco nell'87-88. Ciao Vincenzo, come stai? Ciao Carlo, saluto a tutti, sto bene, dai. Stai bene, lì a Kiev? Sì, sì, stiamo, abbiamo le ultime 5 partite, il tempo adesso è splendido, quindi sai, siamo usciti da un inverno lungo e duro, adesso si sta bene. Meno male, qui il tempo fa schifo, anche se anche vedo, se vedo. È quasi primo maggio. Ma ieri ho sentito un po' di parlare Spalletti, ma cosa combina? Mi torna in Italia, sta lì, hai notizie, gli parli? Ma guarda, io ogni tanto prima ci si sentiva un po' di più, adesso è tanto che non lo sento. Seguo molto il calcio russo, perché sì, anche certo. Qua dall'Ucraina per televisione tutte le partite le guardiamo, soprattutto lo Zenit, perché qua il calcio è in TV in ogni momento, tutte le partite anche qua sono in diretta, eccetera. Io lo vedo, ma l'ho detto anche in altri momenti, lo vedo poco contento, sì, un campionato dove hanno fatto investimenti, non sono riusciti a inserirsi al vertice, quindi le aspettative probabilmente in Russia solo lo Zenit ha grandi aspettative, e quindi chiaramente penso ha avuto problemi con i giocatori quando è arrivato Hulk, insomma credo che sia stata una stagione pesante, e soprattutto qua diventa pesante quando sei fuori dalla lotta per qualcosa, ecco. Certo, io infatti lo sentivo dire con aria non molto allegra, ma sì, siamo ancora in ballo per la Coppa, il campionato è andato, eccetera eccetera. Ma certo. al di là di Spalletti, spiegami questa tempesta tedesca, Vincenzo, perché hanno preso a schiaffoni le due spagnole, che saranno anche rammollite, però voglio dire, sì, 8-1 è tanto. È stata, guarda, indubbiamente tutti quanti lo dicevamo, la Bundesliga è cresciuta, perché per dire anche è un campionato che si guarda molto, e perlomeno le prime 4 o 5 società hanno fatto ottimi passi da giganti. Sono squadre che riescono, a differenza di quello che succede in Italia, riescono a programmare. Gli allenatori rimangono nelle squadre diversi anni, lo stesso Klopp è lì dal 2009 credo, e già era stato 5-6 anni in un'altra società, quindi quello è già importante. Poi secondo me sono campionati che hanno pochi fronzoli, io qua ho dei giocatori che conoscono bene la Bundesliga, vengono dalla Svizzera, e ad esempio mi hanno sempre detto che il Dortmund, il Borussia Klopp, era la squadra che lavorava di più. Beh, fisicamente, fisicamente per fare gruppo, è una squadra che, se andiamo a vedere, ha vinto 2 titoli, no, se non sbaglio, ed era prima dei 2 titoli, era cresciuta proprio in progressione, quindi insomma si vede che sono riusciti a mettere un mattone dopo l'altro. Secondo me, Carlo, un'altra delle cose che ci fa capire la differenza fra noi, il nostro campionato e il Borussia, ad esempio il Bayern è il classico squadrone, ma il Borussia è cresciuto. Da noi in Italia abbiamo parlato di Lewandowski per un anno e mezzo, e loro l'hanno preso, per dire, quando costava soldi che sicuramente erano alla portata anche nostra, perché si parlava di Lewandowski a Parma addirittura, quindi per dire il livello della richiesta allora non era elevatissimo, ecco. Loro hanno coraggio di andare su un giocatore polacco, su un giocatore coreano, su dei giocatori che noi non abbiamo coraggio di prendere, o che farebbero storcere il naso a tifosi, investitori vari, quindi esatto, anche questo, esatto. Anche noi questo siamo... da considerare. Guarda, prima facevi un po' un discorso a 360 gradi, tu lo voglio fare io. Noi siamo diventati sempre, come in politica, e abbiamo bisogno probabilmente di un napolitano, siamo diventati quelli dei se e dei ma. Noi guardiamo talmente tanti dettagli, ormai, guarda, anche negli allenatori, nei preparatori fisici, io quando parlo con tanta gente, anche ragazzi giovani, sono sempre alla ricerca dei dettagli, ma dopo manca la pasta basica per fare le cose. Se manca tutto il substrato, poi puoi dettagliare finché vuoi, Vincenzo. Noi rimaniamo, Carlo, quello che anche quando sono a contatto con l'UEFA mi chiedono sempre, il perché degli infortuni. Ancora a quello dobbiamo riuscire a dare compiutamente una risposta. È chiaro che se tu ti rompi non puoi mai arrivare ad avere una grande prestazione come fanno loro. Noi abbiamo problemi prima. Sì. Loro hanno pochi infortuni, sono più semplici, per dire, probabilmente anche io, ad esempio, guardiamo adesso quello che succede all'Inter, io dico che non per salvare chi sta lavorando all'Inter, ma una parte di questi sono figli dello stress, perché non è possibile che arrivino tutti nello stesso momento quando le cose sono complicate, probabilmente all'estero questo stress è minore. Io lo vedo, l'ho visto, ad esempio ogni anno frequento un mese e mezzo la Spagna, si hanno contatti con squadre, siamo diventati troppo complicati, e probabilmente quello lo paghiamo a tutti i livelli. Ma Bayern e Real, possibile che si siano presentati in queste condizioni disastrose davanti alla tempesta perfetta. Barcellona Real. Guarda, io sono stato in Spagna come al solito dal 10 di gennaio fino a fine febbraio, in pratica, ecco, siamo rimasti e abbiamo vissuto, per dire, il momento in cui il Barcellona stava passando da grande, da super squadra, piano piano si stava spegnendo, aveva avuto difficoltà col Milan, ha avuto difficoltà col Parigi, difficoltà che secondo me il Barcellona di novembre, dicembre non avrebbe avuto sicuramente, ecco. Io lì ci vedo due componenti, Carlo, ci vedo una componente sicuramente fisica, probabilmente giocatori anche un po' stanchi, chissà, anche un po' psicologicamente, e poi secondo me è impossibile pensare che non abbiano vissuto male la storia del loro allenatore. Certo. Per cui, siccome io penso che il calcio è fatto anche di molta creatività, una persona triste non può avere creatività e non può fare calcio a quei livelli lì. Secondo me ha inciso più di quello che hanno sottolineato i giornalisti, ecco. Sì, sì, non sì, solo sì. Perché manca l'allenatore, ma perché l'allenatore, che è veramente uno di loro, è in una posizione così particolare, chiaro, insomma. Chiaro. E il fallimento di Mourinho, perché insomma quest'anno, sai, ha adottato una strategia diversa, ha puntato dritto sulla Champions, si è messo contro tutti e esatto, tutto e tutti contro, e si è seduto lì e ha detto periodo, adesso vincete, fatti bravi, vediamo se vincete. Anche in questo periodo spagnolo non ha dalla sua neanche i tifosi del Madrid, come dicono loro. Per cui anche questi conflitti, però ad esempio mi ha stupito meno il Madrid, perché il Madrid non l'ho mai vista squadra, l'ho visto un gruppo di giocatori eccezionali, con grande personalità, che però, per dire, ogni tanto anche nel campionato spagnolo hanno avuto degli scivoloni, per dire, mentre non so, il Barcellona, io mi ricordo, non so, partite che ho visto con il Valencia, altre partite dove alla fine Messi, già questo succedeva a febbraio, fine gennaio, faceva un gol all'ultimo minuto, gli ultimi 5-10 minuti recuperavano, rimanevano sotto fino all'inizio del secondo tempo, era già una pagina difficile del Barcellona, mentre ad esempio non so, il Real quest'anno è andato, guarda, mi ricordo perché sono sempre stato in Andalusia, sì, le partite in Andalusia le ha sempre fatte disastrose, ha perso quasi sempre, per dire, anche con squadre tipo il Granada ha avuto difficoltà. Cioè, ma ci vedi qualcosa di fisico? Ci vedi qualcosa di fisico in questo? Ma no, io lì non ci vedo tanto di fisico. Secondo me, sai qual è il problema? Che se tu non hai serenità non riesci a lavorare fisicamente, riesci a lavorare bene, Carlo. Lo so. Allora, pensiamo a quanti scandali hanno avuto in Germania, non ce ne ricordiamo neanche uno, per dire. Non, adesso non per tirare la croce da un'altra parte. Beh, uno sì, quello di ONS hanno... mica poco, Vincenzo. Ah beh sì, per l'amore di Dio. Però non hanno problemi di rapporto con i tifosi, ad esempio. Non hanno paura di perdere una partita o due, insomma. Cioè, noi siamo diventati, lo ripetiamo, ma il calcio, per dire, deve pensare un po' di più solo, per dire, ai 90 minuti della domenica, credo. Sì, ma non ce la facciamo, vedi che i 90 minuti, sai benissimo che si spalmano su tutta la settimana in mezzo alle moviole. Un'ultima cosa, sì. Vincenzo, la Juventus potrebbe essere, la vedi come il Bayern del calcio italiano? Quando schiaccia l'acceleratore comunque nessuno riesce a starle dietro. Esatto, e la Juventus, e secondo me proprio un altro termometro del nostro livello è la Juventus, che nel nostro calcio è un Bayern in pratica, ecco. E attenzione, perché un'osservazione che faccio io, Carlo, le uniche partite a livello di intensità si giocano quando c'è la Juventus, per dire, anche quando la Juventus, la partita migliore che ha fatto l'Inter l'ha fatta con la Juventus a grandi livelli, perché il ritmo lo dà la Juventus. La Juventus perlomeno ha quella mentalità di cercare le partite di ritmo, perché vedendo i campionati dall'estero, per dire, il nostro è il campionato, non è il più brutto, sicuramente è uno dei più difficili, però il ritmo manca, certo, e con questo lo paghi a livello parliamo, noi domani giochiamo con una squadra che non è uno squadrone, che però è venuto, che però ha messo in grande difficoltà il Napoli, che è la nostra seconda forza in, certo, Italia, il Dnieper, sì, cioè, sì, una sì, volta sì, non potevi perdere contro la quarta o la quinta forza dell'Ucraina, una squadra di livello, sì, e sì, questo sì, perché anche qua il calcio non è fine, non è raffinato, ma è di grande ritmo, è di grande ritmo, di grande fisicità, grande, e grazie e Vincenzo, grandissimo, grazie a voi, buona giornata. È sempre un piacere parlare con Vincenzo Pincolini e ascoltarlo, credo anche per voi, però adesso io voglio ascoltare voi, cosa che mi piace da morire. 800240024, numero verde, schema libero, quello che volete, parliamo di sport. Francesco Avellino, buongiorno. Salve, buongiorno, super convocato. Niente, io volevo finalmente parlare e celebrare questa, la caduta del super fantoccio Mourinho. Del super fantoccio? Sì, sì. Me non ha mai convinto, perché che io ricordi al calcio, inteso come essenza, non ha mai lasciato nulla, se non tanto lavoro per i giornalisti. Beh, anche qualche titolo, anche qualche titolo. Ma guardi, giocare con delle squadre che hanno due top player per ruolo, probabilmente ci riuscirei anch'io. Ma vede che io, guardi, su questo discorso non sono poi così d'accordo, nel senso che ci sono molti allenatori che hanno molti top player, mi viene in mente Mancini, mi viene in mente Ancelotti, Barcellona, eccetera eccetera. Poi da lì a trasformare, a gestire questo circo Barnum di contratti, di miliardari, di top player, eccetera eccetera, non è una cosa da tutti. Cioè, secondo me è abbastanza luogo comune il fatto che squadra forte e allora vinci. No, vince uno. E Mourinho qualche volta ha vinto. In questo caso è caduto in maniera rovinosa. Probabilmente, come scrive oggi Sconcerti sul Corriere della Sera, deve reinventarsi, deve ovviamente andare via, perché lì ha fatto terra bruciata intorno a sé, però adesso insomma è alle prese forse con la prima grande sconfitta della sua carriera, questo sì. Da Avellino alla provincia di Belluno, Dario. E salve mister Genta, la chiamo mister perché se lei mister mi convoca, ho giocato a calcio 20 anni, quindi io chiamo mister. Chiamo mister. Salve Dario, buongiorno. Buongiorno. Convocato allora, sempre, sempre, sì, sulla, sì, sempre sulla distinta. Anzi, permettimi di dire, dimmi. Ti do del tu che tanto, certo, 40 anni, quindi ascolta, io amavo Garanzini come, sì, giornalista. Il fatto di averti conosciuto quando nei weekend ti alternavi a lui mi ha aiutato a non lasciare Radio 24 in questa fascia oraria, proprio perché quando ho saputo che tu l'avevi presa in mano ho detto vabbè, allora forse vale la pena ancora ascoltare. Fatta più questa piccola premessa, io volevo dirti la mia opinione sul calcio tedesco. Nel senso che intanto evviva finalmente il buon esempio, perché stanno per andare in finale due squadre che stanno attente al bilancio senza sperperare denari. Il Bayern di Monaco è una squadra di paperoni, è una squadra molto, sì, molto ricca. Poi non so se hai ascoltato l'altro giorno, Dario, la lettura che Paolo Condò, osservatore molto attento, sì, e molto fine, ha dato della vicenda Götze. L'hai sentito? Parzialmente, perché io faccio agente commercio. Guarda, quindi te la riassumo e la riassumo per tutti gli altri che non l'hanno sentita. Praticamente Götze ha annunciato, strappato il gioiellino al Borussia di Dortmund, annunciato la mattina della semifinale con il Barcellona. Io dico, boh, che mossa è questa? E allora Paolo Condò, a cui piacciono molti complotti, ipotizzava questo. Allora, Bayern di Monaco è la roccaforte della CDU di Angela Merkel. C'è questo scandalo di Hoeneß che ha portato i soldi in Svizzera e alla fine di marzo ha dovuto pagare 5 milioni di cauzione per non finire in gattabuia, perché lì non scherzano. Per distrarre così l'attenzione pubblica da questo polverone, ha strappato il gioiellino al Borussia Dortmund, che invece è la roccaforte dei socialdemocratici. Mi è sembrata bellissima questa lettura. Tra l'altro Dortmund da sempre è molto più fisica rispetto a Monaco di Baviera, proprio come tipologia di squadra. Mi ricordo ancora i Köhler che poi sono andati alla Juve e quant'altro. Però a parte questo, io sono contento perché non mi stupisce allo stesso modo il calcio tedesco, perché già nel 2011 ero uno dei pochi che diceva che il Bayern non ce l'avrebbe fatta arrivare in finale, che tra l'altro in quell'anno fece fuori il Real Madrid, se non ricordo male, no? Ecco, quindi diciamo c'è continuità, è una società che a suo tempo è stata attenta comunque sempre ai bilanci, sì, è ricca, è diventata ricca, e il Borussia Dortmund, giustamente come diceva prima Piccolini, Borussia Dortmund ha lavorato meravigliosamente sul mercato, sulla squadra, come scrive tra l'altro Arrigo Sacchi, il gioco non si compra, il gioco si costruisce, e a Borussia hanno avuto la pazienza di costruirlo prendendo giocatori giusti a cifre ragionevoli. Quindi se vogliamo parametrarci a qualcosa di tedesco, se le nostre squadre vogliono usare un termine di confronto, hanno voglia di imitare un po' i tedeschi. È chiaro che non è il Bayern di Monaco il termine di paragone, ma è certamente il Borussia Dortmund. Su Twitter, indovinello che ha consigliato Lewandowski al Borussia nel 2010. Alessandro, buongiorno. Buongiorno Carlo, ciao Carlo. Ciao. Convocato per farmi insultare da te perché devo dire tre bestialità. Addirittura. Allora, la prima, sul quale sono non fermamente convinto, ma un po' convinto, è che nelle partite che ha giocato la Juve e il Milan in Coppa, sono convinto che Allegri al posto di Conte avrebbe fatto una figura migliore. Questo non so, ho sentito molti che criticavano sulla scorsa Allegri, molti milanisti, io non sono al loro livello, non capisco il loro livello, però ho questa sensazione che Allegri avrebbe fatto qualcosa di meglio rispetto a Conte, specialmente nella partita lì, insomma. Cioè, se tu dici, se Allegri fosse stato sulla panchina della Juventus ad affrontare esattamente, perché la partita era impossibile sbagliare a quel livello la partita all'andata. Al ritorno ce l'ha messa tutta, ci hanno provato, ma mi sembra che hanno fatto un discreto male anche al Barcellona in settimana, no? Cioè, questo è uno squadrone, è inutile stare lì, uno squadrone, sono mostruosi dal punto di vista fisico, hanno giocatori di talento, perché non dimentichiamo che questi giocano a calcio. Ripetevo l'altro giorno come Müller sia un giocatore, secondo me, tra i primi 4-5 al mondo, e poi sempre il solito Paolo Condò ha raccontato quella storia per cui l'Inter lo poteva prendere un paio d'anni fa per non molti soldi, e gli interisti sono andati su tutte le furie. Non abbiamo la riprova, Alessandro, che Allegri avrebbe fatto meglio sulla panchina della Juventus, così come non valgono i sillogismi nel calcio, cioè Juventus, Barcellona, Bayern Monaco, insomma, sono ogni partita a questo livello a sé stante. Possiamo sommessamente notare come il Bayern abbia, che è una squadra molto ricca a livello del Real, del Barcellona, del Manchester United, del Manchester City, del PSG degli sceicchi, insomma è nell'elite strettissima delle squadre ricche d'Europa, quindi non sorprendiamoci se fa questo cammino, se arriverà alla terza finale in tre edizioni. Le prime due le ha perse, come ricorderete. Non faccio anche sommessamente notare come al 90° minuto della gara di ritorno il Borussia Dortmund era fuori con il Malaga, poi ha segnato due gol, l'ultimo dei quali irregolarissimo nel tempo di recupero. Anche questo è il calcio. Altro? Prima di salutarci? No, ci siamo già salutati con Alessandro. E allora adesso basket. Well, now they gave him his orders in Monroe, Virginia. They said, Steve, you're way behind time. This is not 38, this is old 97. Put her in the Spencer on time. Ciao coach, Dan Peterson. Ciao Carlo, amici sportivi, buon pomeriggio a tutto e a tutti. Anche con te partirei da un titolo di giornale, il giornale del Panathinaikos, che titola Bartomeu vai al diavolo. Non dimentichiamo che Bartomeu, spagnolo, catalano, è il signor Eurolega, dopo che il Barcellona ieri ha battuto in questa partita un po' d'antan, 64-53, 20 pari nel secondo tempo, ha battuto il Panathinaikos. Sì, veramente una partita a punteggio bassissimo, soprattutto dopo l'intervallo le squadre non riuscivano a segnare, buone difese, ovviamente, però anche i blocchi mentali d'attacco, le scelte proprio scellerate qualche volta. Come dico io sempre in telecronaca lì per Sport Italia, sì, i problemi del basket nascono in attacco, cioè ovviamente le difese sono super importanti, però i problemi quando tu vai in tilt, vai in apnea, qualcosa così, è perché l'attacco, cioè, non inquadra, non funziona. E ieri sera Panathinaikos aveva le sue buone possibilità per vincere le partite, ovviamente le hanno sciupate uno dopo l'altro. E ovviamente ce l'hanno con Bartomeu, perché ovviamente loro Diamantidis, dopo prime neanche 5 minuti, 4:37 dopo 4:37 aveva tre falli, tre fischi. Esatto. Lui, a mio avviso, ha un po', cioè, non è stato cauto come doveva essere cauto, anche la quarta, è stato un po' azzardato le sue cose, quindi deve. Uno intelligente, esperto, bravo come lui, super, anzi il miglior giocatore d'Europa, deve anche sapere di queste cose, e tutelarsi e amministrare le cose un pochettino meglio. Non l'ha fatto e hanno pagato carissimo, perché potevano benissimo vincere la partita ieri sera, pur non essendo in serata, non tirando bene da tre, anzi tragicamente. Sì, coach, in semifinale vanno le spagnole, a differenza di quanto capita nel calcio. Ci sarà il classico Barcellona-Real Madrid. No, Carlo, ti sbagli, il super classico, deve dire. Il classico, hai ragione. Il super classico. È il classico. È il classico. Barcellona strafavorito, però la storia recente insegna come quando esci da un derby, comunque una partita molto delicata, poi in finale fai una fatica della Madonna. Oh, yeah, esatto. Infatti per anni le squadre italiane sono state penalizzate da questo fatto qui di dover per regolamento incontrarsi nel semifinale. Quello che vinceva era sempre esaurito dal fatto di giocare contro una squadra italiana. Anzi, un anno c'è stato un derby, sì, nel senso 99, Siena e la Virtus ha battuto la Fortitudo e poi per la finale con Zalgiris. Sì. Io dico sempre CSK, dico sempre Ettore Messina, che aspetta l'avversaria, penso all'Olympiacos che dovrebbe vincere le FSPS. Hai ragione tu, Carlo, è tutto costruito per Ettore, per CSK, perché diciamo che Olympiacos vince, io pronostico Olympiacos perché giocano in casa, la bella Cezzone, una bella squadra, però se CSK gioca come Dio comanda, la rivince contro l'anno scorso, vanno in finale anche abbastanza sciolti, ovviamente chi vince fa Real Madrid e Barcellona sarà spompato dopo aver vinto il derby e teoricamente, poi tra la teoria e la pratica ovviamente c'è molta strada. Coach, tu sai che tra poco adesso Eurolega, viviamo il gran finale e poi ci tuffiamo nei playoff italiani, quest'anno lacrime e sangue per i pronostici, non ne becchiamo uno, vedrai che non ne becchiamo uno, poi è dal 91, cioè, sarà il 23° anno che li faccio per la gazzetta, no? E c'è gente che dice, come mai la Gazzetta non licenzia Peterson, perché non li azzecca? Cioè, perché la Gazzetta è felice che ne prendo io tutte le io lo faccio tutti i giorni. Figurati che non ne becco così mai, che prima mi è arrivato un messaggio di un ragazzo, mi ha scritto. Io sono meno bravo di te, caro, meno campione del mondo degli sbagli, dei pronostici. No, ma ascolta, c'è un ragazzo che mi ha scritto prima un SMS, per favore dimmi che non passerò l'esame di diritto commerciale, te lo giuro. un anno facevo io per la Gazzetta, no? E allora eravamo in macchina io e mia moglie i primi risultati, la primissima partita, ok, era contro il mio pronostico, e lei dice, coach, complimenti, perché sei in media proprio, hai fatto quindi, fuori anche questi. Cacchio, alla grande. Ci divertiamo, coach, ci divertiamo, vedrai. Assolutamente, caro, quando sappiamo la griglia di partenza per i playoff in Italia, perché adesso non lo sa nessuno, perché sappiamo che Varese primo, Sassari secondo, ma dal terzo al settimo, ottavo posto c'è in alto mare, c'è proprio un gomitolo di lana. Sì, esatto, c'è proprio tutti sotto un fazzoletto, come si dice in italiano, sotto una coperta si dice in americano, a blanket finish, blanket vuol dire coperto, blanket finish, finire sotto una coperta, ok, quindi tutti lì. Okay. Coach, ti saluto con questo Twitter di Matteo. Non mi interessa il basket, ma non posso perdermi neanche una parola di Coach Peterson. Pensa un po'. Matteo, su Twitter. Matteo, che cerchiamo di fare il nostro meglio, perché come si sente anche da fa quando io e Carlo parliamo, ci divertiamo, ma anche Carlo, bisogna dire la verità, quando ci vediamo noi due sul campo è uguale, no? Sì, cioè, è uguale papale, cioè proprio ci vediamo e facciamo le battute fra di noi anche sui pronostici, esatto. Quindi amici sportivi è così, ok? Grazie coach, ti abbraccio. Ciao Carlo, ciao a tutti. Ciao coach Peterson. Nicola Taranto, buongiorno Nicola. Dove sei? Fammi sentire la tua voce. 800 24 00 24. Anche i telefoni stanno facendo il ponte. Cosa dite? Stanno facendo il ponte del 25 aprile. Visto che tra poco ci butteremo sull'NBA con Miami che è in fuga per la vittoria, nella notte il terzo punto con Milwaukee, e Chicago invece che sta conduce 2-1 nella serie contro Brooklyn. Belinelli dunque cosa ha detto dopo questa partita? Sentiamolo. Sì, è stata una partita dura, molto fisica, penso che abbiamo giocato veramente una buona partita, penso soprattutto nel secondo quarto e nel terzo quarto, e siamo riusciti comunque a mantenere il vantaggio, nonostante magari negli ultimi secondi eravamo anche solo, diciamo, sopra di 3 o di 4, diciamo che l'importante è arrivata questa vittoria, penso che gara 3 penso sia nelle serie di playoff sempre quella più importante. 79-76 per i Bulls di Belinelli, sempre nella notte. Memphis che si è riportata così in partita nel confronto con i Los Angeles Clippers, superandoli sul proprio terreno 94-82, mentre dicevo di Miami che è in fuga, terzo punto 3-0 su Milwaukee 104-91. Vedo Camara da Genova. Camara da Genova, Camara. Sì, perché so che attualmente stiamo parlando di basket. Sì, parliamo però di tutto, parliamo di tutto, è schema libero, Camara, non c'è problema. Vorrei venire sull'argomento Real Madrid. Sicuro? Dimmi. Sì, no, perché io sono un tifoso del Real, no? Sì. Vorrei semplicemente ricordare che a Dortmund abbiamo giocato praticamente con Veran e Pepe al centro della difesa, e normalmente il Real gioca con Veran e Sergio Ramos al centro della difesa, sì. Arbeloa a destra e spesso Marcelo o Essien a sinistra. Quindi non c'era Di Maria. Non c'era Di Maria, certo. No, ma mancavano. Ma secondo lei, Mourinho ha fatto degli errori in questa partita? No, Mourinho non ha fatto, secondo me non ha fatto degli errori, perché ha giocato con i giocatori che lui aveva a disposizione, tranne Di Maria che aveva avuto una figlia, quindi farlo giocare contro Dortmund, cioè, ma però io sono sicuro che il martedì prossimo a Bernabéu Real giocherà con tutta la sua squadra. Sì, giocherà però, come... però mi sembra in una buca il Real Madrid, cioè non ce lo vedo rimontare, considerata la condizione degli avversari. Mi auguro quantomeno sia una partita di grande orgoglio per il Real e per Mourinho, ma non ci mettere la mano sul fuoco su questo, perché ormai mi sembra che la barca del Real Madrid sia allo sfascio e il comandante sia già destinato ad altri lidi. Giuseppe, provincia di Caserta. Buonasera. Mi sta cercando la linea, prima volevo salutare Coach Wiederson, epico, Caserta, storico, di sfide memorabili proprio. Certo. Abbiamo bisogno ancora di personaggi del genere nel basket. Sì. Nulla, volevo sapere se da Milano avevate notizie di quella querela casertana, di questo fantomatico personaggio che si è presentato bolognese, figlio di un noto personaggio della Federazione Olega, che si presenta davanti a un notaio, dice di voler comprare il pacchetto di maggioranza della Juve Caserta e poi scompare. Sì, questa è la cronaca. Questa è la cronaca. Pare che non abbia monolocali a Perugia, come lo sceicco della Roma, però insomma anche questa è stata l'ennesima. Una delle tante figuracce cui si è sottoposto lo sport italiano, cui si è sottoposta la pallacanestro italiana, la figuraccia peggiore però resta quella di avere comunque molte squadre, troppe squadre che non hanno le carte in regola e i bilanci in ordine, e quindi noi guardiamo al campo, però non c'è certezza del diritto nello sport, e forse mi voglio dire in particolare nel basket italiano, perché vicende come quelle di Napoli ce le ricordiamo bene, Capo d'Orlando ce le ricordiamo bene, poi si muore, si rinasce e poi si fanno i campionati senza soldi, scavando dei buchi clamorosi, e poi non sappiamo bene chi parteciperà alla prossima stagione, e poi c'è la lotta a salvezza, ma siamo sicuri che poi parlerà davvero la classifica? Io a tutte queste domande non so dare uno straccio di risposta. Prende il tiro da tre, lo batte, colpo da giocatore di biliardo al tabellone, più due match, la partita si accende, la serie decolla, il palleggio per Michael Jordan è al spazio, tutti lo aspettano, può essere l'ultima azione della sua carriera NBA. Michael Flavio Tranquillo, give me the truth. Su che cosa? Ti stanno divertendo di più i playoff NBA o i tweet di Phil Jackson e Kobe Bryant? Ah beh, Phil Jackson è imbattibile perché a livello di stimolo culturale non ce n'è, però anche i playoff NBA si lasciano guardare. Si lasciano guardare. Sì. Però conditi da questi tweet, Kobe che scrive a partita in corso, Pau vai a giocare in post basso, e Phil Jackson che si scrive al volo su Twitter e risponde, beh, meraviglia, meraviglia. In Italia robe così ce le sogniamo. Miami. Quanto pagheresti nella prima mezz'ora per poter parlare? Non hai idea. Di Zanetti che dice: ma perché giochiamo con quattro difensori? Senti, Flavio, Miami è andata. It's gone. 3-0 Milwaukee. Sì, Miami è andata, ma non c'era dubbio. Chicago su Brooklyn. Insomma, Chicago ci ha messo il pepe. 2-1 questa sfida è aperta. Boston è morta secondo te? No, ci andrei piano perché l'abbiamo detto già troppe volte, però onestamente ha un plafond di punti che riesce a esprimere. È lo stesso problema di Chicago, è la differenza, con il massimo rispetto per i Nets, è che giocano nella stessa città dei Knicks ma non sono nella stessa città offensivamente parlando, e quindi il problema dei Celtics è che a 80-85 di partite con i Knicks non ne vinci moltissime, mentre contro i Nets per il ritmo e la maniera in cui giocano puoi sperare di vincerne, anche se vincerne 4 è tutt'altro che banale anche per i Bulls. Sì, sicuro. No, sto guardando, a proposito di Phil Jackson e di personaggi, sto guardando Mazzari che in conferenza stampa dichiara: con il Pescara è la partita più difficile, evviva. Senti, ascolta Flavio, San Antonio Los Angeles, non mi sembra ci siano molti spiragli per i Lakers di Mr. Tweet Kobe Bryant, nonostante i tweet di Kobe Bryant. Ma è situazione abbastanza paradossale, nel senso che se avessimo previsto qualche mese fa, al di là di tutto quello che è successo, che saremmo qui a dire esattamente la stessa cosa che abbiamo appena detto per Chicago e Boston, cioè i Lakers non hanno abbastanza punti nelle mani per poter pensare di battere San Antonio, a meno che non succedano delle cose particolari. È ovvio che di mezzo c'è l'infortunio di Bryant, certo. Ma di mezzo ci sono anche tante altre cose, e questo è veramente paradossale. Sì. Ieri sera, con il commento tuo di Federico Buffa, ho guardato OKC Houston. La distanza non è tantissima tra queste due, cioè è meno di quanto si potrebbe immaginare. Tra Rockets e Thunder, dici? Sì. Ma guarda, direi che i Rockets sono i Thunder di due anni fa. I Thunder di due anni fa fecero uno 0-2 contro i Lakers, che all'epoca erano una squadra inavvicinabile. Poi vinsero due partite in casa e per poco non portarono quei Lakers alla settima. Non so se i Rockets ce la faranno, però di certo i Rockets sono in una situazione a livello anagrafico, salariale e tecnica simile, non identica, perché non c'è Kevin Durant, ma e non c'è magari neanche Westbrook, però simile a quei Thunder, per cui se azzeccano la prossima mossa diventano passibili di iscriversi al club elite. Alla lista, sì. Esatto. Senti, per chiudere Flavio, i problemi di Denver, insomma, li abbiamo quasi chiamati, no? Li abbiamo quasi immaginati prima, preconizzati, 1-1 con Golden State, è già una serie difficile per Denver. Non so se e quanto pesi l'assenza di Gallinari, eccetera eccetera, però insomma tu dicevi prima o poi una serie di playoff riusciranno a vincerla, magari nemmeno stavolta. Ma allora, intanto il discorso dell'assenza di Danilo, è ovvio che pesi ed è ovvio che non sia l'unica considerazione, sì, però sì. Adesso pensare che con il massimo rispetto tra far giocare Fournier e far giocare Gallinari sia la stessa cosa, e questo è ovviamente completamente sbagliato. Il problema dell'assenza di Danilo è che fa venir meno un uomo, forse il più importante, ma al di là di questo comunque un uomo importante nella rotazione, quindi sposta tutti avanti di un posto, e quindi quando normalmente c'è la grande pera di energia, adesso non c'è più la pera di energia perché hai un uomo in meno nella rotazione contro una squadra come Golden State. Se non hai energia, come non avevano in gara 2, non riesci a rimetterla in piedi neanche miracolosamente come hanno fatto in gara 1. Io però penso che alla fine di Riffo e di Raffa, anche per l'assenza di David Lee, la serie la portino a casa, però è in dubbio, è sicuramente in dubbio. Grazie Flavio, ti abbraccio. A voi. Grazie a Flavio Tranquillo, con cui chiudiamo il venerdì il programma di oggi, la settimana, anzi no, la settimana no, perché domani tutti convocati Magazine, il meglio e il peggio di questa settimana dello sport dalle 17 alle 18. Ringrazio Franco Piantanini, autore di questo programma, e Roberto Scaltritti in regia. Ciao a tutti. Adesso sto curando i tacchini e c'ho una faraona che se n'è andata. Adesso devo andare a cercarla nei prati. Il più ricco di un re, intorno a te, contadino. Sto togliendo i germogli a un gelso.